9 in punto. Eccoci qua, sono le 9:10 e non sono Oscar Giannino. Sono Alessandro Milan. Oscar Giannino, come detto, ormai l'abbiamo detto abbondantemente, per qualche impegno professionale qualche giorno non sarà con noi, ma 9 in punto c'è. Beh, intanto io dico, non sono Oscar Giannino, è già importante in una giornata in cui ci sono delle certezze, in cui parleremo di scienze e credenze, di leggende metropolitane oppure no. Perché oggi è l'11 maggio. E secondo una profezia, che non si sa neanche se poi sia una profezia vera oppure no, secondo una pseudo profezia di uno pseudo scienziato, così è definito su Wikipedia, Raffaele Bendandi, l'11 maggio, cioè oggi, Roma verrà colpita da un terremoto devastante che la raderà al suolo. Insomma, ce n'è per toccare ferro, ce n'è per discutere. Ce n'è per capire qualcosa, perché pare che il 18% dei romani abbia chiesto per oggi un permesso ferie. Della serie non sarà vero, però un po' ci credo ed è meglio che me ne vada via da Roma a scanso di equivoci. Pare, secondo un monitoraggio della Coldiretti, oggi lo cita il Messaggero, che ci sia non un esodo di massa, ma comunque un gran numero di famiglie che oggi a Roma abbiano detto, grazie al tantan della rete, grazie alla diffusione su internet di questa notizia, anzi bufala, di dire vabbè, intanto sapete che c'è, io se posso mi prendo un giorno di vacanza, mi prendo un giorno di permesse ferie, me ne vado via, perché è meglio così, non si sa mai, tanto mi ripresento a Roma il 12 di maggio. Bufala terremoto, così titola Libero in prima pagina, uno straordinario pezzo di Giampiero Mughini che dice oggi non ci sarà nessun sisma a Roma, peccato. Ci sono scrittori, Luciano De Crescenzo, che da una parte sul Messaggero dice la mia anima napoletana, insomma mi fa un attimo toccare ferro, poi la mia anima da ingegnere, dunque di uomo legato alla scienza, dice no, ma insomma non è possibile credere a questa cosa. Tra scienza, pseudoscienza, miti e leggende, l'11 maggio a Roma, con la profezia, che forse neanche era una profezia vera, di Raffaele Bendandi. Morto il 3 novembre 79, ripeto, definito dalla Wikipedia uno pseudo scienziato italiano che elaborò una teoria personale priva di qualsiasi riscontro oggettivo sulla natura dei terremoti e le presunte cause che li determinerebbero. Allora, cari ascoltatori, 800 24 0024 se volete intervenire in diretta, parliamo di questo, lo facciamo con gli ospiti che saluto. Intanto un geologo, ricercatore al Consiglio Nazionale delle Ricerche, scrive anche sulla Stampa, lo conoscete in radio, in TV, Mario Tozzi. Buongiorno Tozzi e benvenuto. Buongiorno a voi, grazie. Così come voglio salutare Massimo Polidoro, che è il cofondatore e segretario nazionale del CICAP. Il CICAP è il Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sul Paranormale. Polidoro, buongiorno, eccoci qui. Buongiorno, buongiorno a voi. Voglio salutare anche Paola Ligorio. Buongiorno signora Ligorio. Buongiorno a voi. Lagorio, infatti. Paola Lagorio. Paola Lagorio che ruolo ha? Presidente dell'Osservatorio. Presidente dell'Osservatorio Sismologico Raffaele Bendandi. Allora, intanto, signor Lagorio, chi era Raffaele Bendandi? Che vuol dire che era uno pseudoscienziato? Vuol dire semplicemente che, siccome era nato in una famiglia molto povera, ha potuto frequentare solo la quinta elementare, quindi non ha titoli di studio e quindi ha creato la sua formazione studiando da solo sui libri, e questa testimonianza è garantita da tutta la biblioteca ricchissima che lui ha conservato e che adesso è patrimonio del comune di Faenza, la casa stessa che Bendandi ha donato al comune. Nel quale comune di Faenza credo che sia stata dedicata anche una scuola, no? Una scuola. Sì, esatto, la scuola media Bendandi. È una via. E quindi però questo, signora Lagorio, adesso lei ci deve spiegare qualcosa, perché voglio dire, intanto questa profezia dell'11 maggio esiste, non è di Raffaele Bendandi. Per cui, cari romani che siete in vacanza, avete preso un giorno di ferie tra l'altro per nulla, cioè Bendandi non ha mai detto questa cosa. No, io ho parlato con tantissimi romani, mi hanno telefonato in tanti, mandati in posta elettronica, io ho chiarito da tantissimi mesi che questa non è una previsione di Raffaele Bendandi, che lui non ha mai lasciato scritto in nessun documento che l'11 maggio ci sarà un terremoto a Roma. Quindi chiaramente non può essere coinvolta la figura di Raffaele Bendandi per un evento che lui non ha mai predetto. Mario Tozzi e Massimo Polidoro, come far morire le cose nella culla, mi verrebbe da dire. Mario Tozzi, intanto Mario Tozzi è a Roma in questo momento, sì? Sì, sì. È tutto tranquillo? Ma certo che è tutto tranquillo, Se succedesse qualcosa, ce lo dica in diretta, no? No, oggi 12 maggio ci sono le stesse probabilità che a Roma avvenga un terremoto di quelle che c'erano ieri e di quelle che ci saranno domani, insomma, noi non lo conosciamo perché i terremoti non sono prevedibili nella maniera più assoluta, però sappiamo che Roma non può subire terremoti devastanti perché, per quello che abbiamo conosciuto, non li ha mai subiti e non ha strutture geologiche sotto la superficie romana che possano generare quelli tremendi. Roma risente solo dei terremoti dell'Appennino, e questo lo sapevano già gli antichi romani perché li registravano dal movimento delle lance appoggiate alla Reggia Palatina nel foro, quando c'era il terremoto in Umbria si muovevano tutte insieme. E risente poi di una piccola sismicità nella zona sud, i Castelli Romani e il Castello di Decima, che è una sismicità legata però per lo più al vulcano che c'è lì e dei colli al mare. Basta, i danni a Roma possono avvenire perché la città è vetusta e dunque gli edifici non sono sempre ben tenuti, e per questa ragione anche un terremoto, un risentimento del terremoto leggero può provocare dei danni, ma questo è quanto, ne ha già provocati, addirittura il Colosseo fu danneggiato da un terremoto nel 1349, però detto questo non c'è altro. Ecco. Però purtroppo, se posso aggiungere, sì, Fisco, che il problema è questo: quando si parla di previsione dei terremoti, cosa, lo ripeto, che non è possibile in alcun modo oggi al mondo, purtroppo, mentre altri eventi naturali possono essere previsti, i vulcani, le frane, le alluvioni, quello sì, ecco, quando si parla di quello si sonna l'attenzione al vero problema. Il problema è che noi sappiamo benissimo dove avverranno i terremoti e più o meno quanto saranno forti, dunque dovremmo investire nella prevenzione, quella funziona bene perché il terremoto di suo non t'ammazza, t'ammazza la casa costruita male che ti sei fatto in testa, e invece adesso curiamo l'idea che li possiamo prevedere dopo domani, questo ancora non è. No, ma infatti, tra l'altro, però è interessante capire come questo abbia innescato un meccanismo psicologico, io non lo so se questo 18% sia vero di romani che oggi hanno preso le ferie, hanno preso un giorno di permesso, c'è qualcuno che ci ha anche scritto che Roma oggi appare più vuota dal punto di vista del traffico, non so se qualcuno si è preso una gita fuori porta, non lo so, però mi interesserebbe capire da Massimo Polidoro, come detto segretario nazionale del CICAP, che monitora, controlla tutte queste false profezie, questi falsi miti, queste leggende che corrono grazie anche alla velocità della rete, no? Con cui si possono scambiare informazioni nella rete. Come dobbiamo interpretare questo? Prendiamolo per buono, questo 18%. Comunque molte persone che ci credono, molte persone che dicono: sapete che c'è? Io intanto oggi l'11 maggio a Roma non ci sto e poi domani mi ripresento e stiamo tranquilli. È un segnale preoccupante, è un segnale fisiologico, Polidoro? Ma sì, direi abbastanza fisiologico, nel senso che previsioni di catastrofi, di fini del mondo ce ne sono periodicamente, e sappiamo tutti che l'anno prossimo il mondo finirà, quindi non abbiamo... Chi l'hanno detto quelli Maya, no? Che come... certo, I Maya nel 2012. Quindi c'è sempre chi poi queste cose le prende sul serio e magari ci sta anche male, ci soffre, si preoccupa e addirittura appunto se ne va proprio più lontano possibile da dove potrebbe esserci la catastrofe. Invece c'è chi di queste credenze in qualche modo ne approfitta, no? Allora, al di là di chi ci specula un po', magari creando programmi televisivi, scrivendoci libri, alimentando queste false credenze, poi c'è anche chi, come leggevo, forse alimenta questo tipo di credenze proprio per allontanare le persone, magari approfittarne perché le case sono vuote, no? Leggevamo. Vabbè, addirittura, cioè... dice che è una manovra. No, perché mi scusi, Polidoro, ma qua non è valsa l'ordine della Protezione Civile a dire: guardate che non c'è nessun tipo di allarme perché non sono prevedibili terremoti. Non è valso nulla dal punto di vista dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, col presidente Enzo Boschi che dice una cosa molto triste quello che sta avvenendo. Non sono avvalsi gli allarmi, insomma, di dire del Campidoglio, il call center del Campidoglio pare preso d'assalto, del comune, a dire: ma state tranquilli, non c'è nulla. E Polidoro, la gente, una parte della gente, percentualmente non identificabile, noi l'abbiamo identificata in questo 18%, non ci crede. Polidoro. Le dichiarazioni dell'autorità, in questo caso di chi ha informazioni più più complete, comunque più attendibili, non viene preso sul serio, viene invece preso sul serio magari appunto un volantino trovato per caso, piuttosto che la voce o quello che ci racconta l'amico del cugino o del fratello. Purtroppo è un meccanismo che si ripete abitualmente, che si ritrova anche nelle cosiddette leggende metropolitane più classiche, no? Dalla storia degli amanti incastrati, piuttosto che dell'autovelox che si potrebbe raggirare appendendo un CD allo specchietto retrovisore, e così via. Ce ne sono tantissime, sono tutte delle bufale, non stanno in piedi, non hanno nessun senso logico e tantomeno pratico, eppure tantissimi ci credono, perché sembrano soluzioni molto semplici, molto pratiche e in qualche modo vanno incontro a certi bisogni. Io intanto voglio ricordare il numero per intervenire in diretta, 800 24 00 24. Senta, signora Lagorio, Paola Lagorio, io le chiedo questo. Lei ci ha detto all'inizio che Raffaele Bendandi ha studiato, si è fatto da sé, come si suol dire, sì, no? Ha studiato, è un autodidatta, ecco, alla quinta elementare, eccetera. Però ci spieghi questa cosa, perché Mario Tozzi, geologo, ci ha spiegato, come ci dicono gli scienziati seri, che non esiste metodo al mondo per prevedere i terremoti. Allora, siccome lei ci ha già detto che Raffaele Bendandi su questo 11 maggio non c'entra nulla, non si capisce come sia nata questa leggenda, però tramandano le cronache che in passato Raffaele Bendandi ci avrebbe azzeccato con su alcune. Sì, sicuramente esiste un atto notarile. Notarile che è conservato presso il notaio Domenico Savini, in cui sono riportate le due date, le prime due previsioni del 1924 che Bendandi ha fatto. È vero che Bendandi stesso affermava che nel determinare il luogo aveva una certa incertezza, cioè non riusciva a determinare con assoluta precisione il luogo dell'epicentro del terremoto. Aveva un errore anche di alcuni, se non addirittura decine di chilometri. Questo era Bendandi stesso che lo affermava. È chiaro che Bendandi è riuscito a individuare un metodo e all'epoca è riuscito a fare delle previsioni. Però quale metodo, credo in base alla posizione degli astri nel cielo, sì, e dell'influenza del sole. Una combinazione, sì, dello studio sul sole. Sul sole prima di tutto, l'attività del sole, il ciclo decennale del sole e le macchie solari. Poi considerava tutte le posizioni dei pianeti e i loro allineamenti, sì, e elemento fondamentale, la chiusura della Luna su questi allineamenti. Bene, e quali sono queste due previsioni che ha depositato con un atto notarile? Quella del mare Egeo del 1924, del gennaio del 1924 e della Marsica. Queste erano le due previsioni che Raffaele Bendandi ha dichiarato ufficialmente dal notaio Domenico Savini. Cioè prima ha detto avverranno il giorno. Questo il giorno. L'ha detto nel dicembre del 1923 e i due terremoti si sono verificati nel gennaio del 1924. Queste sono documentate, ci sono gli atti presso questo notaio e quindi tutti li possono consultare. Invece le altre previsioni che Bendandi ha fatto, tipo anche il terremoto del Friuli, il terremoto di Ancona, sì, chiaramente non esistono degli atti notarili, quindi la testimonianza proviene dagli articoli di giornale che Bendandi stesso ha conservato, in cui veniva dichiarato apertamente che, per esempio, nel Friuli Bendandi andò in sede a parlare per dire che prevedeva questo terremoto, nessuno gli ha creduto e allora la cronaca dice che Bendandi ha fatto tantissime telefonate per informare, per avvisare la gente di questo terremoto. Il terremoto si verificò. Però precisamente quel giorno? Sì, proprio quel giorno. Lì però non esiste una documentazione ufficiale, tipo un atto, ma solo telefonate. Mario Tozzi vuole rispondere a Paola Lagorio, che ci dice... Vi prego, qui allora intanto non c'è nessun metodo, perché se ci fosse un metodo questo dovrebbe essere validato da degli scienziati e nessuno lo ha validato. Come si usa? Se tu c'hai un metodo, lo scrivi su una rivista scientifica e altri tuoi pari giudicano se questo è possibile e riuscibile in tutte le parti del mondo. Questo non avviene, non c'è alcun metodo, anzi il metodo scientifico ci dice proprio che non si procede in questo modo, si procede in tutt'altra maniera, cioè quella di raccogliere delle evidenze sperimentali e poi farle validare dalla comunità scientifica internazionale. Questo non è avvenuto, dunque non esiste alcun metodo. Poi che tu possa azzeccare, se io dico che nel prossimo gennaio ci sarà un terremoto in Cina, beh, più o meno ci azzecco, specialmente se il terremoto non è devastante. Ora, tu non prevedi, perché sei troppo piccolo, il terremoto del 1915 nella Marsica, però sostieni di averlo previsto, perché Bennandi ha scritto un fogliettino in cui si, con una data precedente in cui si diceva questo, però ne prevedi uno in Marsica che francamente rispetto a quello è molto poco confrontabile. Quello delle Marche è sbagliato di due giorni, quello del Friuli ritiene una regione come quella del Nord-Est, che sono, saranno, non lo so, un 150 km di larghezza per altrettanti di lunghezza, lo so fare pure io una previsione così, ma non è una previsione. I terremoti non si prevedono, il sole e i pianeti non hanno alcuna influenza sui terremoti, né tantomeno sui cosiddetti battimenti della Terra, in maniera così sensibile da provocare terremoti, addirittura catastrofiche. Queste sono palesi sciocchezze. Poi, dopodiché, naturalmente, uno può anche dire che dopo domani ci sarà qualche cosa e s'applica, ma questo non lo discuto, ma non significa proprio niente. Però è interessante anche capire, e Polidoro ci sta aiutando, anche il meccanismo popolare, quello delle leggende, quello che poi spinge le persone a credere in questo. Però siccome Paola Lagorio solo la dobbiamo liberare alle 9.30, intanto, signora Lagorio, ma è vero, mi suggeriscono dalla redazione che pare sia stato previsto per il 5-6 aprile del 2012, sempre da Raffaele Bendandi, un terremoto devastante. Questa previsione è partita purtroppo in internet e sono andata avanti in parallelo 11 maggio e 5-6 aprile. Perfetto, quindi come l'11 maggio, che non ha previsto nulla e non ha detto nulla, e noi stiamo qua a discutere del nulla, il 5-6 aprile del 2012 Raffaele Bendandi per quella data non ha mai previsto, mai indicato alcun tipo di terremoto. Esatto, mai. Quindi i Maya sono anche, se no la suggerivamo ai Maya come possibilità di distruzione del mondo. Mi permetto una battuta, signora Lagorio, non è che stiamo per carità. Lei comunque insomma crede in queste teorie, in queste... No, io vede, non è questione di credere, io ritengo giusto esaminare questi calcoli, esaminare i documenti che lui ha lasciato e vedere che cosa c'è di positivo, senza adesso poter dire se Bennandi o no sapeva prevedere, non è quello il problema. Eventualmente questa è semplicemente una testimonianza del passato, poi può avere senso, secondo me scientifico, esaminare in dettaglio i suoi documenti e poter eventualmente decidere con calma cosa c'è di positivo e cosa non. Ma ho capito, però signora, è stato già definito uno pseudo scienziato, vale a dire un metodo scientifico, cioè il metodo ha dei canoni, come ci ha spiegato Tozzi, I documenti di Bendandi non sono stati visionati da nessuno a parte alcuni studiosi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, che sono mai stati esaminati dalla scienza ufficiale, che però mi pare dicono questi, cioè non mi pare dall'Istituto di Vulcanologia e Geofisica ci sia stata una... studiandoli, questo non vuol dire che uno debba dire che sono giusti o sbagliati, per il momento vengono esaminati. Intanto io, signora Lagorio, la ringrazio per essere stata con noi. Allora, ci sono tanti ascoltatori che ci chiamano, ne vogliamo sentire un paio prima della pubblicità, poi con Massimo Polidoro, con Mario Tozzi, ci raggiunge anche un altro ospite, continueremo questa discussione. Mariella da Roma, giustamente oggi ci chiamano molti da Roma. Mariella, buongiorno. Sì, buongiorno. Roma. Il potere devastante delle leggende metropolitane è più devastante di quanto supponete. Quindi lei è rimasta a Roma, mi pare di capire. È a Roma. No, sì, io sono a Roma, me l'ero anche dimenticata di questo terremoto di oggi, l'avevo sentito. Però uscendo di casa stamattina ho visto sotto casa, io vivo in centro, sotto casa mia, avrei potuto scegliere dove parcheggiare. Che è effettivamente un po' vuoto. Fuori scuola di mia figlia non c'era la solita seconda, terza fila di auto in attesa per lasciare i bambini. Per cui devo dire, mi è venuto un po' da ridere. Benedetto Bendandi dice, meno male che c'è stata questa previsione. L'ho toccato al mercato quando sono andata a prendere i pomodori come al solito e mi fa la signora, dice il terremoto, dico fino adesso non c'è stato, ma il giornale diceva alle 4:20 stasera. Attenzione, abbiamo un orario. Vabbè. Alle 16:20, infatti immediatamente mente locale sul mio pomeriggio, le 16:20 un po' di cose da fare tra sette ore. Va bene, grazie Mariella. Ripartiamo da Luca da Roma e da Massimo Polidoro e Mario Tozzi subito dopo un attimo di pubblicità. Allora, eccoci qua, le 9:33 minuti. Come detto, sono Alessandro Milan. Oscar Giannino tornerà nei prossimi giorni, dopo i suoi impegni professionali. E insomma, stiamo discutendo di questo 11 maggio, che secondo una leggenda tramandata su internet, sui giornali, un po' diffusa anche porta a porta, bocca a bocca, una profezia, secondo una profezia che poi abbiamo scoperto, una profezia che non è neanche davvero, non ha delle basi, non è esistente, perché questo Raffaele Bendandi, la profezia dell'11 maggio, il terremoto devastante a Roma, manco l'ha fatta. Eppure stiamo discutendo di questo, del fatto che a Roma, come ci ha detto un'ascoltatrice, c'è un po' di psicosi o comunque di gente che crede a questa cosa. Lo stiamo facendo con Mario Tozzi, Massimo Polidoro, e voglio salutare anche, ci ha raggiunto un cantante, attore, un simbolo di Roma, Lando Fiorini, che saluto. Buongiorno Fiorini. Buongiorno a voi tutti, ragazzi. Allora, buongiorno. Siamo buongiorno. Subito da lei. Intanto vorrei sentire anche Luca da Roma, che ci dice. Luca, lei è rimasto a Roma? Sì. No, io come attualmente no? Sto andando a Roma. Perché, ah, sta andando a Roma, va bene. Vado a ritirare del materiale. Io abito a Genzano, zona dei Castelli Romani. Ok. Quindi comunque è una zona sismica. Noi abbiamo avuto negli anni, mi ricordo sin da bambino, diversi terremoti, e anche con una forza discreta negli anni. Io ricordo proprio quando ero bambino, insomma, c'è stato un bel terremoto, periodo maggio-giugno, fine scuole. E fece, diciamo, non danni gravissimi, ma insomma di paura ne ha creata tanta. Vabbè, ma lei va a Roma tranquillo, mi dica che ne pensa, sì, di questa. Sì, sì. Ma guardi, in realtà la psicosi è tutta la zona di Roma, perché qualche giorno fa è tornata mia figlia, a 7 anni, è tornata a casa, papà mi ha detto, papà guarda, lo sai che l'11 maggio ci sarà un terremoto? Eccola. Io naturalmente dico, ma... Jasmine, ma chi te l'ha detto questa cosa? Lo dicono tutti a scuola. Ma che faccio? Vado a scuola, papà. Dico, guarda, non ti preoccupare, sicuramente è uno scherzo. In realtà, anche fuori le scuole, tra la gente, io ho un piccolo negozio, tra la gente se ne è parlato, se ne parla. E anche stamattina ne parlava. C'è un po' di questa psicosi. Io intanto la ringrazio. Vorrei da Massimo Polidoro e poi andare a Lando Fiorini. Massimo Polidoro, qua si è anche un po' scherzato, ma la questione secondo me è molto più seria di un banale scherzo, di una banale battuta che io ho potuto fare anche con la signora che presiede l'osservatorio, Raffaele Bendandi. Perché a mio parere, modestissimo parere, un paese che percentualmente, una percentuale che non lo so quanto possa essere ampia, crede a queste cose. È un paese, una città, una società, un tessuto sociale un po' in difficoltà, un po', no, arrancante, per usare un eufemismo. Polidoro, o sbaglio, o esagero, sono troppo bacchettone da questo punto di vista. E che vengono alimentate credenze infondate, no? A partire dall'astrologia in poi, da programmi televisivi, da articoli sui giornali, vengono tutte trattate in maniera acritica, l'unico scopo è quello di aumentare un po' lo spazio, l'ascolto, comunque le vendite, e tutta questa trattazione acritica di affermazioni del tutto infondate, che siano appunto pseudoscientifiche, che siano altro, pseudomediche a volte, non può che confondere poi. Senta, le posso chiedere questo: secondo lei quanto è legato al livello di istruzione, la proporzionalità in cui si crede a queste cose? È sicuramente importante anche quello, nel senso che una bassa competenza scientifica, comunque anche semplicemente le cognizioni di base di come funziona la scienza, di come funziona la conoscenza del mondo, sicuramente influiscono sul fatto che uno non sa poi capire che cosa può essere vero e che cosa no quando si sentono certe affermazioni. Però non c'è solo quello, c'è il ruolo dei media che è fondamentale nel diffondere e nel propagare informazioni infondate senza fare chiarezza, senza dare strumenti per capire. Beh, interessante poi l'ascoltatore che ci ha detto che la sua bambina l'ha saputo a scuola, perché a scuola lo dicevano tutti. Tra poco Mario Tozzi ci spiegherà anche questi meccanismi, che dell'informazione li conosce meglio di me. Lando Fiorini, e allora qua c'è da affrontare questa situazione. Romano vero, verace, che ha saputo di come l'ha saputo di questo terremoto. Io per natura sono ottimista. Ieri ero in campagna e sono tornato a Roma. Dimostrazione che non credo a queste cose. Avanti ad affrontare il nemico. Ma non affrontiamo niente, c'è una bellissima giornata, c'è il sole. Queste sono chiacchiere che si mettono in giro e allora ecco, l'ignoranza è tanta a cominciare da me, però io non credo a queste cose, no, assolutamente no, è una bella giornata, c'è il sole, siamo ottimisti, sono tornato apposta io, voglio dire a parte faccio lo spettacolo, è chiaro che forse parlano di questa cosa perché veramente l'Italia sta andando un po' a pezzetti, allora ecco, e come il mio spettacolo si chiama Sfracelli d'Italia, forse si riferiscono a tutte le situazioni antipatiche che ci sono in giro e che non vanno bene, ma io sta fine del mondo proprio non la sento per niente, io sento bene, non ci credo. Ero stato chiamato anche per andare stamattina in televisione, dico ma che vengo a dire? Che vengo a dire? Che queste sono chiacchiere che si mettono in giro, non so per quale ragione e perché. Ma io sono ottimista per natura e non credo assolutamente a queste cose. Ma ha trovato questa Roma un po' più vuota, come ci ha detto un paio di ascoltatori, ci hanno detto no, perché qualcuno, pare che il 18% dei romani si sia preso un permesso ferie a scanso di equivoci. Sì, mia moglie è rimasta in campagna, io sono venuto via perché a parte Roma, a parte che stasera devo fare lo spettacolo, ma a parte questo, io proprio non credo assolutamente a queste cose, è come quando, volevo credere quando c'era, non so, venne la nevicata del 56, la nevicata ci può stare, la pioggia ci può stare, ma io non credo al terremoto, assolutamente no. E neanche soprattutto, come ci ha detto Mario Tozzi, la possibilità di prevederlo. Sentiamo anche che ne pensa Tullio da Roma, ci ha chiamato l'800240024. Oggi diamo molta precedenza a quelli di Roma perché voglio sondare un po' il polso, no? Tullio, lei è tranquillo? Io sono tranquillo, tranquillo. Ma è tranquillo e preoccupato, non tranquillo. Io sono preoccupato perché se anche non fosse il 18%, anche fosse il 10%, non riflette una cosa da prendere così con l'indulgenza della credenza popolare, e qui c'è una società esoterica ed è sullo stesso piano di chi va dai maghi quando deve fare un investimento per sapere come va un rapporto, o di chi si perde davanti alle slot machine, ci sono manifesti con gli studi legali che offrono assistenza a chi si chiude nelle stanze delle famiglie per più di 2 ore la sera davanti a un computer a giocare. C'è una società esoterica nella quale secondo me non è secondaria anche la demolizione sistematica a tutti i livelli, non sto parlando solo di una parte politica, fatta del concetto di autorità. Ormai, come giustamente diceva lei, non danno retta al Comune di Roma, agli osservatori, a scienziati che non dico che concorrono per il Nobel, ma potrebbero anche un giorno scoprire delle cose importanti, non si dà retta a questo, però basta una parrucchiera per dire che terrorizza 5 cretine sedute sotto un casco e 5 famiglie partono. Cioè, è un sintomo di gravità di questa società. Oh, è una considerazione molto interessante che girerei a Mario Tozzi. Tozzi, oltre che geologo, è anche appunto un uomo di comunicazione. Mettiamo insieme quello che ci ha detto Tullio da Roma e quello che ci ha detto l'ascoltatore prima, che dice mia figlia è tornata da scuola dicendo oh, ma c'è il terremoto, ma lo dicono tutti. Tutti lo dicono a scuola. Che facciamo, papà? Allora, dice, vale più la voce di una parrucchiera che fa la messa in piega a 5 donne piuttosto che quella della Protezione Civile, del Campidoglio, dell'Istituto Vulcanologia e Geofisica. Tozzi. Qui c'è un problema di fondo. Intanto, per cominciare, questo è un paese dal punto di vista scientifico analfabeta, ce lo possiamo dire molto tranquillamente. Infatti in nessun altro paese del mondo, di quelli moderni sviluppati, diciamo del G8 o del G20, una roba del genere avrebbe diritto d'albergo, non ci sarebbe proprio, perché da noi la scienza non è mai stata considerata cultura, no? È sempre stata considerata dai tempi crociani nefasti, da questo punto di vista, come una specie di collezione di francobolli. Dunque la scienza non si sa, questi scienziati non sono nemmeno d'accordo fra loro, figurati. E questo è un primo fatto, dunque non c'è informazione di base, perché lì a scuola la maestra avrebbe dovuto essere la prima a dire no, che cosa dite, non è possibile prevedere i terremoti, e invece magari non l'ha fatto. Poi l'altra cosa è questo uso della rete. Noi siamo tra coloro che usano usano la rete e quelli che la usano di più per motivi diversi che non la conoscenza. Quando la usiamo per la conoscenza, la usiamo distorta in questa maniera qui, perché sulla rete, qui una critica gliela si può fare, la certezza della fonte è difficile da avere, per cui tutto è buono, tutto quello che trovi, una volta si diceva l'ha detto la televisione, adesso gira in rete, ma mica è la stessa cosa, nel senso che queste voci vanno validate, autentificate, dunque bisognerebbe preoccuparsi della fonte, da dove viene questa notizia? Sì, che visto, non si è neanche capito da dove è partita, cioè appunto, qualche manifesta, neanche Raffaele Bendandi l'ha detto, appunto, pare. È quella storia delle amplificazioni in rete di alcune questioni che portano, sai come se ne è parlato pure a proposito delle scie chimiche degli aeroplani, tante altre cose che a un certo punto vengono gonfiate, e se tu non hai un atteggiamento scettico come il mio, usando un metodo scientifico, vieni pure ritenuto uno che nasconde un complotto, anche in questo caso chissà quale complotto. Beh, chiaro, anche a me hanno scritto tante volte, lei non parla mai delle scie chimiche, che sono delle cose che non voglio neanche approfondire nel mio ambito. Di che dobbiamo parlare? Un'ultima considerazione, c'è anche un aspetto, diciamo, quanti sono i romani? Io adesso mi sono percorso tutto il Lungotevere, effettivamente in realtà c'era una gran fila che me la sono fatta tutta, non so quant'è la percentuale, ma se consideriamo, già si è accennato, che molti italiani in generale la mattina prima di muoversi leggono l'oroscopo, che ha lo stesso effetto che avrebbero i pianeti sui terremoti, così hanno l'effetto le costellazioni sulle persone, perché le costellazioni le abbiamo inventate noi, quindi figurati un po' se poi non è che c'è una costellazione nel cielo del Sagittario, siamo noi che abbiamo letto un disegno in un disordine di stelle, dunque niente di meno di meno percettibile, niente di più lontano dal vero, sono così lontane che su noi non possono avere nessuna influenza, eppure molta gente lo fa, e quindi questo fa parte di questo paese che culturalmente dal punto di vista scientifico è imploso, non esiste più. Allora, prima delle informazioni sul traffico, poi vorrò approfondire con Lando Fiorini questa cosa di sfracelli d'Italia, cioè di pensare che da questa storia si possa pensare di un paese, come dico anch'io, è un paese, per carità, senza voler essere troppo cattivi, ma un pochino allo sfascio da questo punto di vista, insomma, se si credono a queste cose, insomma, vorrò approfondire il parere di Lando Fiorini, però prima vorrei sentire Roberto da Bologna, buongiorno. Buongiorno a tutti, grazie intanto per darmi questa possibilità. Io volevo soltanto dire questo, sono sicuramente un ignorante scientifico, sono scettico, poi vivendo a Bologna sicuramente sono facilitato, però c'è anche da dire che quando ci fu il terremoto dell'Aquila, se non ricordo male, ci fu tuttora in corso un'azione della magistratura contro, mi sembra, la protezione civile, perché era un terremoto che qualcuno aveva detto si sarebbe potuto essere, o comunque verificare. Mi pare che sia stata archiviata, non vorrei dire una dal punto di vista giudiziario. Lei si riferisce a Giuliani, credo si chiamasse così, colui che aveva detto guardate che arriverà il terremoto per lo studio del radon, credo, ma dirò delle castronerie perché sono ignorante tanto quanto lei, se mi permette, Roberto. Quindi diciamo, io ignorante, lei con su internet non sono in grado di arrivare, cioè lei dice in realtà una qualche possibilità di prevedere un terremoto, insomma, lei, secondo lei c'è, no? Credo personalmente, però dico, io non ci credo e va bene, non ho nessuna competenza scientifica, cerco informazioni ed è difficile risalire alle origini in rete, credo che è vero, poi mi trovo una magistratura che fa un'azione a sostegno fondamentalmente Un'indagine, ma adesso ripeto, pare che sia stata archiviata, mi pare di ricordare, però magari mi sbaglio, comunque un'indagine, uno apre un'indagine su un'ipotesi di reato, poi magari l'indagine va a finire in nulla. Intanto le informazioni sul traffico e poi l'ultima parte di 9 in punto. Eccoci qua, allora Lando Fiorini, sfracelli d'Italia, che con lo stile corrosivo, insomma, mette a nudo un po' le manie dei politici, anche degli italiani, ma questo è quello di questo 11 maggio, è un bel emblema, insomma, un bello spunto per mettere a nudo le manie, le superstizioni, le leggende. Ma forse il terremoto è questo, è l'Italia che sta andando veramente a pezzi, questa è la realtà. Ha ragione Tozzi, è quello che ha parlato in precedenza, che c'è una grande ignoranza, a cominciare da me. Io mi ricordo da ragazzo, ho lavorato dei giorni in televisione con Macari, uno sosteneva che gli italiani sono un 20% della gente che ha studiato, un altro 15-20% gente che ha studiato fino a un certo punto, però la maggior parte sono abbastanza non preparati, per non dire ignoranti, e lui diceva che c'è certi spettacoli devono essere fatti per tutti, nel senso che per farsi capire, non possono essere esageratamente, ci sono tutti i rami dello spettacolo, ma quelli semplici sono quelli che poi piacciono di più alla gente. Allora io credo che l'ignoranza è fondamentale, a cominciare da me dico questa cosa, ma non si può credere a queste stupidaggini soltanto perché, come hanno detto prima, una ragazza dal parrucchiere oppure il bambino a scuola dica queste cose. Voi guardate oggi Roma, che bella giornata che c'è, il sole è stupendo, ma quale il terremoto è quello che c'è nell'Italia, che non va bene, non troviamo la strada giusta. Il terremoto è quello di parlare del terremoto, forse. Certo, parliamo di cose più serie, magari. No, intanto Tozzi vuole, perché ovviamente doveva uscire la vicenda di Giuliani, dell'Aquila, eccetera, vogliamo dire una parola, la scienza si riappropria del suo spazio, Tozzi, sulla questione di Giuliani. Ma senza nessuna spocchia, voglio dire. No, è chiaro, per che carità. No, perché se uno dice è stato previsto il terremoto dell'Aquila, fa un errore. Intanto per cominciare, Giuliani disse che in base a questo precursore, il radon, che è effettivamente un gas che può dare qualche indicazione in questo senso, ci sarebbe stato un terremoto nell'Abruzzo in un certo periodo. Forse. Francamente è un po' poco per dire che è una previsione. Così come dire c'è un terremoto in Friuli, e sai che vuol dire? Proprio niente, le strutture geologiche magari vicine sono distanti 10 km, già una può scatenare e l'altra no. Ma una volta sola fu possibile prevedere un terremoto al mondo, fu nel 1975 in Cina, ma succedeva la qualsiasi, cioè c'era il terreno che passava, le fratture che si aprivano, le sorgenti che si seccavano, gas dappertutto, le autorità evacuarono la zona e fece... Sì. Si fa per dire solo 1000 morti. L'anno successivo, nella provincia accanto, nel 1976, un terremoto, il più grave di tutti, 500.000 morti, non fu annunciato da niente. Diciamo, lo studio dei precursori c'è, si può fare, ma purtroppo non ci dà ancora. Non c'è nulla di scientifico. Di scientifico. Massimo, vorrei da Massimo Polidoro, come detto segretario della Nazione del CICAP, quindi profondo conoscitore di tutte queste leggende metropolitane, qualcuno ce le ha anche dette, Polidoro, questa del terremoto, cos'è, un gran classico che ogni tanto si ripete o... Più che altro, sì, diciamo le paure sulle catastrofi si ripetono periodicamente, da quella della fine del mondo nel 99, piuttosto che doveva anche essere legata poi al problema dei computer. Vi ricordate? Sì, il pacco del millennio, come no? Esattamente. Certo. 2000, il passaggio della data, non è successo. Però abbiamo messo in piedi, credo, una grande struttura per cercare di affrontare questa cosa, non è successo nulla. Adesso ovviamente c'è quella del 2012, ma poi le leggende metropolitane che circolano più spesso sono quelle proprio terra-terra che riguardano poi la vita quotidiana di tutti noi, dalla storia che si racconta o che la mamma dice al bambino: guardi, non fare la pipì nella piscina perché altrimenti diventa tutta rossa e si vede e quindi scoraggia in qualche modo. Quella è falsa. Quella è fatta. Meglio non dirla però, perché sennò le piscine quest'estate, vabbè, poi... Adesso sono a scuola i bambini. Ah, ecco. Poi ce ne sono tante, non so, c'è il fatto che ci sono storie anche quasi dell'orrore, no? La storia dell'autostoppista fantasma, un ragazzo che torna a casa la sera in discoteca, dalla discoteca trova una ragazza che deve tornare a casa, l'accompagna. Lei si dimentica la giacca nell'auto di questo ragazzo. Il giorno dopo, quando il ragazzo torna per riportare la giacca di questa ragazza, va nella casa dove l'ha accompagnata e scopre che la madre dice: ma guardi, mia figlia è morta 5 anni fa, va al cimitero e trova che in effetti lì c'è questa ragazza che aveva incontrato ieri. Insomma, queste si tramandano, si trasformano, ci sono un po' in tutto il mondo tutte queste storie e non hanno nessun fondamento, però piacciono, oppure non so. Sì. Ma c'è anche, io devo dire, forse esercita il fascino appunto della società esoterica, come l'ha definita, criticandola molto prima il nostro ascoltatore, no? C'è questo fascino, insomma, del mistero, che però a volte è deleterio, no, Polidoro? Cioè, a volte poi provoca anche dei danni. Sì, cioè. Assolutamente sì, perché se noi pensiamo di risolvere i nostri problemi affidandoci a soluzioni magiche, difficilmente li risolveremo, molto più probabilmente li renderemo più complessi, no? Quindi tante persone che pensano che esista la bacchetta magica, che esista il filtro d'amore per far tornare la persona amata, per trovare il lavoro o per guarire da qualche malattia, andranno incontro. E certo, perché poi ci sono questioni di costi, delusioni e anche problemi anche ben più seri. Vorrei, per concludere, Paola da Roma, anche lei da Roma. Paola è rimasta a Roma. Buongiorno. È ammattita. Buongiorno, ammattita in mezzo al traffico, veramente, non è vero. Il che vero non terremoto. Il vero terremoto in macchina, quindi non è vero, o sono tutti qui, oppure non lo so. E l'altra cosa che volevo dire è che anche in classe di mio figlio fa la quinta, si era sparsa questa voce, questa. Ma da parte di chi? Dei bambini. Ah, vabbè, quinta elementare. Dicevano di aver letto, di aver visto, i genitori evidentemente non sono stati capaci di ben smentire, l'ottima maestra li ha incartati e portati all'istituto di vulcanologia che abbiamo vicino. Oh, cioè ha fatto un applauso a questa maestra. Un applauso alla maestra, infatti volevo dire, a messa di scienze, dopo aver spiegato l'infondatezza di questa cosa e non aver visto la convinzione sul volto dei bambini, c'è anche venuta l'idea che oggi ci sono le prove invalsi. E forse un modo per saltarle, per le hanno fatte, le stanno facendo e poi andranno all'istituto. Ma un applauso, guardi, la sua testimonianza, Paola, credo che farà gongolare Mario Tozzi in chiusura. Insomma, un applauso a questa maestra che ha preso e la ha portato anche delle altre quinte, quindi tutte le quinte vanno all'istituto di vulcanologia. Cioè, si può fare qualcosa. L'applauso ce lo mandano dalla regia per concludere il nostro Carmelo Lauricella. Senta Paola, io la ringrazio con questa testimonianza, ringrazio anche Mario Tozzi, Massimo Polidoro, cofondatore e segretario del CICAP, e Lando Fiorini, di cui ricordo lo spettacolo Sfracelli d'Italia. E che dire, appunto, non sono Oscar Giannino, ma sarà nei prossimi giorni ancora forse assente per qualche impegno e poi ritornerà. Io ringrazio Franco Piantanida. Mi scusa anche Oscar, lo saluto. Ciao Oscar, se sei all'ascolto, ti ho sostituito un po' così, insomma, ci ho messo del mio, forza. Franco Piantanida, grazie. Alessandro Marco Tulli. E chi? Carmelo Lauricella, che manda gli applausi alla maestra elementare in chiusura. A chi diamo la linea? Al giornale radio. Io, per quel che mi riguarda, invece ci ritroviamo. No, domani non ci sono, domani prendo anch'io un giorno che non ci sono. Ci troviamo venerdì, per quel che mi riguarda, alle 7:20. Domani ci sarà Gianfranco Fabi alle 7:20-24 mattino. A domani, insomma, nei prossimi giorni. Ciao. 9 in punto.